Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 luglio, il sole in regione sorto alle 5.29 tramonterà alle 20.56. Martedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lara Boccalon. In pochi mesi di attività hanno consolidato una affermata cooperativa agricola che ruota attorno al cavolo, ma che cavolo, quello storico di Collina di Forni Avoltri, che con una sapiente regia agronomico-promozionale sta proponendo quale ortaggio iscritto nell'elenco dei prodotti agroalimentari regionali. Di questa esperienza di successo ci occupiamo nel servizio di apertura, per passare poi a un viaggio insolitamente lirico di Enos Costantini alla scoperta di tesori nascosti nella pedemontana occidentale. Delle alterne sorti del PSR si occupa invece la rubrica delle normative, mentre ci avviamo verso la fine della storia dell'allevamento bovino in regione. Un magnifico spazio verde a San Vito che avrebbe bisogno di più cure è al centro della rubrica dei giardini, mentre per la serie dedicata alla storia della grappa siamo al digestivo, anzi al caffè, coi suoi utilizzi paraliquoristici. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana concludono la puntata. Chiapud da culino, ovvero cavolo cappuccio da Collina di Forni Avoltri, è il nome della Coop Mont di Collina, una cooperativa nata pochi mesi fa che già si è affermata tra le sue finalità quella dell'incremento della politica agricolo forestale in zona. Michele Tocca è il promotore della cooperativa. Perché è nata e quando? È nata l'anno scorso per dare lavoro principalmente a 5 giovani del posto che hanno la passione dentro per poter continuare la tradizione locale della produzione principalmente del cappuccio di Collina, che è un prodotto tipico locale, che è iscritto anche nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli. Carta d'identità di questo cavolo cappuccio. Cavolo non tanto grande, dal peso di 1,5 kg o 2, anche 3 kg al massimo, e ha la forma tondeggiante e schiacciata al polo. Questo cavolo voi l'avete ripreso con le vecchie sementi? Abbiamo continuato la tradizione che era portata avanti, diciamo, dalla mia famiglia, da mio padre, che adesso è anziano. E c'è anche una bella storia riguardo i terreni. Siete andati in giro per metà mondo, per non dire per tutto il mondo, alla ricerca dei proprietari per avere sì, i terreni lassù, in affitto. Giusto, perché lassù, diciamo, come sappiamo, nella Carnia c'è molto frazionamento dei terreni. Allora abbiamo cercato di raggruppare dei terreni lavorabili, adesso stiamo affinando la pratica per poterli avere in affitto e poterli avere sicuramente per diversi anni per poter continuare l'attività. Non solo cavolo cappuccio, ma vi state espandendo già ad altre produzioni. Sì, noi l'anno scorso abbiamo già fatto delle prove e abbiamo visto che anche la verza, anche un altro tipo di cappuccio viola viene molto bene. Poi anche gli ortaggi lassù in montagna vengono benissimo. Ci diceva che il vostro cappuccio tra le sue qualità è proprio la croccantezza, perché? Intanto nasce in montagna dove c'è uno sbalzo termico fra il giorno e la notte elevato, quindi il cappuccio si restringe e viene molto duro, è molto sottile, tenero e si scioglie in bocca. E avete inventato per il vostro cappuccio già anche una festa, da un titolo sicuramente molto simpatico, Cavoli Nostri. Sì, abbiamo l'anno scorso, da un'idea venuta lì in paese da amici, perché non facciamo la festa del cappuccio? Perché girava nell'aria da anni, no? E visto anche con l'avvento della cooperativa e un po' di entusiasmo è nata la festa dei Cavoli Nostri, che ha avuto un ottimo successo e ci ha permesso di vendere tutta la produzione rimasta dei nostri cappucci. Non solo la festa, ma anche il recupero di vecchie tradizioni, vecchie ricette. Adesso stiamo recuperando le ricette delle nostre mamme, che poi verranno scritte e verranno divulgate nelle prossime feste del cavolo cappuccio. E infine in pochissimi mesi avete già collezionato più di qualche premio, quello di partenza, quello di Lega Coop. Di Lega Coop, il primo, adesso il secondo, abbiamo ottenuto la bandiera verde di Lega Ambiente, che siamo andati a riceverla a Cuneo. Chi siete in cooperativa? Allora, nella cooperativa fanno parte 5 ragazzi, Francesca, Martina, Daniele, Monica e Andrea. Che Francesca è la presidente, Martina è la vicepresidente, Daniele, Monica e Andrea sono i consiglieri. Tutti più o meno laureati, tutti in agricoltura, che sanno quello che fanno. Sì, sanno più o meno tutti fare e il resto lo impareranno. E come tutti i giovani devono imparare a lavorare, a fare sotto la nostra direzione. Anche io sono un appassionato di agricoltura, mi sono sempre impegnato nel settore, diciamo. Un Enos Costantini, insolitamente lirico, oggi ci conduce in un viaggio alla scoperta di tesori nascosti nella pedemontana occidentale della nostra regione. Un sabato lassù, molto lassù, a Omenars, l'aria era frizzante e balsamica, si respirava volentieri, l'atmosfera agreste invogliava a camminare tra i boschi, peraltro curati, come del resto i prati falciati. Una eccezione sulle nostre prealpi, che si spiega con la presenza di qualche residuo e temerario allevamento e di una latteria a Pradis, per ultimi moicani coraggiosi. Ho scoperto una chiesetta che mi era sfuggita nelle precedenti peregrinazioni in quella alpestre contrada, così come qualche fontana, un cippo commemorativo. Il luogo merita una gita anche perché poi si può scendere verso la Val d'Arzino sia attraverso boschi, sia attraverso Vito d'Asio, magari visitando l'antica pieve di San Martino con l'altare del Pilacorte. Nulla vieta poi, attraverso agevole strada, di salire verso Sella Chianciutan, godendo di splendide faggete, e guadagnare la Valle del Tagliamento attraverso Verzegnis. Una deviazione verso la Valle di Preone, se il cielo è sereno, sarebbe quanto mai gratificante per la bellezza dei luoghi e, avendo una mezz'ora, per godere delle chiaroverdi acque dell'Arzino che si producono in splendide cascate. Mi sono invece diretto ancora più a ovest, attraverso luoghi perlomeno pittoreschi e pieni di fascino, case, chiese, campi, monti incombenti, gente friulanamente affabile, ma di cui si avverte lo spirito, il senso del bello, l'ilarità e la capacità di lavoro. La strada pedemontana occidentale mi ha sempre attratto e faccio volentieri deviazione per i paesi, ogni volta scoprendo qualche piccola grande meraviglia. Una pittura murale, una pergola, un portone. A Maniago Campagna un piccolo allevamento di capre e un museo della civiltà contadina. Villa Menegozzi in piazza Duomo ad Aviano si sente che è vissuta, ma non ha carenze manutentive e l'esterno si presenta in modo assai più decoroso di tante consorelle. A Castel d'Aviano ci sono due chiese autentici gioielli, San Gregorio e Santa Giuliana. E ci sono due allevamenti, uno di bufale e uno di capre, che forgiano fior di latticini. I formaggi caprini superano di più passi il livello della ordinarietà. Giunto a Stevenà, ormai in odore di marca, dopo Villafrovo ho girato il ronzino e il tramonto mi ha sorpreso a Marsure. Case di sassi squadrati e una latteria sotto un cielo che si tingeva di rosa. Commentavo ciò che vedevo col mio inesistente compagno di viaggio. Abbiamo concluso che le vere eccellenze del nostro territorio sono i suoi tesori nascosti. Il 12 giugno scorso si è tenuto il comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo che cosa è emerso. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. È presieduto dall'assessore regionale dell'agricoltura ed è formato da tutti i portatori di interesse in tema di politica agricola e agroalimentare, una cinquantina oltre alle pubbliche amministrazioni. Tra i vari punti all'ordine del giorno c'era l'informativa a cura dell'autorità di gestione sullo stato di avanzamento del programma, che riguarda tanto gli indicatori tecnici specifici per le diverse misure quanto la parte finanziaria. Lo scorso anno eravamo in forte ritardo, oggi a che punto siamo? Allora, rispetto alla situazione registrata alla fine del 2017, quando il Friuli Venezia Giulia occupava la penultima posizione in Italia per avanzamento della spesa, Devo dire che al 31 dicembre del 2018 avevamo recuperato molto, posizionandoci più o meno a metà della classifica, con il 28,1% di fondi erogati, qualche decimo di punto sotto la media nazionale, che era il 28,73%. E a che cosa è dovuta questa accelerazione? Allora, è frutto di almeno quattro fattori. Il primo riguarda lo sblocco dei pagamenti di una quota molto consistente di domande per misure a superficie, in pratica misure agroambientali, agricoltura biologica, indennità compensative per la zona montana, pagamenti che erano bloccati da due anni a causa di anomalie informatiche generate dal mancato incrocio di banche dati. Il secondo motivo riguarda le misure investimento che per loro natura comportano tempi di esecuzione lunghi e conseguentemente anche i tempi di pagamento sono posizionati più verso la fine della programmazione. Il terzo si riscontra nella decisione dell'amministrazione regionale di semplificare le procedure, per esempio sulle varianti o sulle modalità di controllo. E infine, ma non ultimo per importanza, l'utilizzo del fondo di rotazione in agricoltura, che è lo strumento più agile di tutti e che ha consentito l'anticipazione alle imprese per gli investimenti per parecchi milioni di euro. Che cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Allora, entro i primi mesi del 2020 sono attesi nuovi bandi che riguarderanno, oltre alle misure a superficie con impegni pluriennali e interventi forestali a sostegno delle zone colpite da uragano Vaia, l'agriturismo e investimenti aziendali. Con riferimento a quest'ultimo intervento sono previste ulteriori semplificazioni che dovrebbero accelerare ancora la spesa. Per esempio, nel caso di semplice acquisto di macchine e attrezzi, la spesa ammessa a contributo non si baserà più su una terna di preventivi, ma su costi standard, mentre per quanto riguarda gli interventi su immobili sarà data priorità a quelli immediatamente cantierabili. Concludendo la scorsa puntata, Sandro Menegon ha accennato i requisiti per l'iscrizione al libro genealogico anche per i Torelli di Frisona Italiana, quindi la pezzata nera si stava diffondendo in regione. L'utilizzazione della razza in regione risulta sporadica fino alla fine del metà del Novecento. Ricordiamo la già citata presenza di alcuni capi di pezzata nera verso la fine dell'Ottocento in provincia di Udine ed Aquileia e un discreto numero nel tenimento di Freforeano Ronchis. Inoltre a Paularo il signor Taruscio introdusse alcuni capi agli inizi del secolo rinsanguati con quelli importati nel 1922. E dopo cosa è successo? La presenza della razza in regione è in parte legata alla storia della SNIA di Torviscosa, che fino alla fine degli anni 50 coltivava su circa 5.000 ettari la canna gentile per l'estrazione della cellulosa e aveva un patrimonio zootecnico costituito prevalentemente da razza pezzata rossa friulana. Abbandonata, diciamo, la monocultura della canna, l'azienda si convertì ad una normale rotazione agraria e introdusse gradualmente la frisiona, prima di origine europea e successivamente nordamericana. Agli inizi degli anni 60 erano presenti su tutto il territorio regionale circa 2.400 capi di frisiona. L'agricoltura friulana del 1969 pubblicò l'elenco delle reginette del latte che risultarono appartenere alle più grosse aziende della pianura, in particolare alla Saici di Torviscosa, la Coin di Latisana, la Volpares di Palazzolo dell'Ostella, la Pitau di San Leonardo Montereale Valcellina e la Roiata di San Quirino. Ci manca solo il Goriziano e la provincia di Trieste. Sì, in provincia di Gorizia negli anni 60 era presente un limitato numero di brune, ma considerate di buon livello genetico. Nel territorio triestino negli anni 50, considerata la pressante domanda di latte, fu necessario introdurre tori e vacche brune di buona genealogia dalla Val Venosta e Valtellina. Nel 1952 venne costituito il centro di fecondazione artificiale e nel 1966 venne concessa la costituzione della sezione del libro genealogico nazionale in provincia di Trieste. Oggi per la rubrica dei giardini Franca Merluzzi ci parla del giardino di Palazzo Tullio Altan a San Vito al Tagliamento, giardino che purtroppo in questo momento non è al suo massimo splendore. Nel centro storico di San Vito al Tagliamento si ammirano antichi edifici restaurati e angoli di verde. Si può accedere liberamente al giardino di Palazzo Altan Rota, sede del municipio, e fino a poco tempo fa, la prima domenica del mese e in occasione di eventi, anche in un altro giardino, quello di Palazzo Tullio Altan. Si estende sul retro per circa mezzo ettaro ed è attiguo al Museo della Vita Contadina nel Friuli Occidentale. Il museo è aperto, il giardino invece è chiuso, non visitabile come ho appurato di persona. A questa rubrica sono giunte segnalazioni, documentate da foto, di uno stato di conservazione che preoccupa. Ha ragione, visto che si tratta di un luogo storico con un bel giardino all'italiana, con siepi in bosso, esposto quindi al rischio della piralide, vorace insetto da eliminare prima possibile, e un parco romantico con alberi, aiuole e rosai. Circa 20 anni fa il ripristino delle parti architettoniche e della componente vegetale fu affidata a un esperto, Paolo De Rocco, che riportò l'insieme all'assetto che aveva nei primi decenni del Novecento. L'architetto illustrò i problemi affrontati in varie pubblicazioni. Il bosso richiese potature particolari per ridisegnare le forme. I glicini, che danneggiavano l'emiciclo, vennero fatti appoggiare su supporti metallici. La collezione di rose fu incrementata con varietà coltivate dalla fine dell'Ottocento agli anni 30 del secolo scorso. Fu un restauro esemplare realizzato con fondi pubblici. Allora la proprietà era della provincia di Pordenone. Soppresse le province, il sito è diventato di proprietà della regione. Fiduciosi, attendiamo la riapertura di questo piccolo gioiello d'arte che richiede attenzione. La grappa in regione ha saputo declinarsi in svariati utilizzi e abbinamenti. Quello col caffè è uno di questi, come ci dice Gabriele Cagliazza. Mentre la distillazione improprio d'acquavite di vinaccia resta di per sé preclusa dalla legge, nonostante l'odierna reperibilità dei ferri del mestiere, persino online, si può tranquillamente dire che invece nel settore dell'impiego della grappa chi fa da sé ha comunque un gran bel da fare. Non solo la normativa vigente consente infatti di aromatizzare delle buone grappe partendo dal distillato più o meno neutro legittimamente uscito dalle distillerie autorizzate, ma esiste e sussiste tutta una serie di modalità d'utilizzo del PETES che in alcuni casi più di qualcuno forse neppure immagina. Infatti, se insaporire ulteriormente con della sgnape il già ricchissimo ripieno di alcuni dolci, come la gubana o gli strucchi legati alle festività tradizionali dal Natale alla Pasqua senza dimenticare nozze, feste patronali, eccetera, è una consuetudine giunta fino a noi da tempi lontani ed è abilmente completata dall'annaffiatura del prodotto finito, per esempio la più o meno generosa porzione di gubana, sapientemente affettata e ancora fumante perché appena sfornata, con una spruzzatina di grappa, anche correggere il caffè con dello spali è ormai una sorta di piccolo rito, e non soltanto in regione. Come si sa, esso consiste nell'allungare la scura bevanda marostica, ricavata dalla tostatura e macinazione dei chicchi della notissima rubiacea, aggiungendo ad essa una minima dose di buona acquavite di vinaccia, secondo gli esperti a 50 gradi, il cui profumo esce esaltato dall'incontro col calore e l'aroma del caffè. Una tipica tradizione friulana, invece, è tuttora quella del resentin, la piccola grande arte di risciacquare la tazzina o chicchera, ancora calda, poiché con essa si è appena degustato del buon caffè preferibilmente corretto grappa, versando in essa un piccolo quantitativo di PETES, che sempre a parere degli esperti può essere anche a 40 gradi, purché squisito, da sorseggiare poi con calma e magari senza scordarsi mai di tenere nella dovuta considerazione il vecchio adagio «grappini e caffè, fermati a tre». Apparentemente più recente, ma forse tutt'altro che tale se solo si ripensa agli albori alchimistici della distillazione, è l'assaggio della grappa, per il quale si sfruttano in un primo momento la vista e l'olfatto, dopodiché si passa al gusto e risultano più che sufficienti 3-4 sorsetti per apprezzare appieno ed eventualmente valutare la bontà o meno del distillato. Infine, senza alcun dubbio contemporaneo, invece l'uso della sgnape nella realizzazione di cocktail, sia come vera e propria base, sia come semplice ingrediente, grazie alla scoperta della sua notevole mixability, proprietà che in quest'ambito non fa altro che affiancare la sua già nota neutralità e ottimizzare la sua intensa aromaticità. Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. In occasione della ricorrenza dei santi patroni Ermacolo e Fortunato, la Camera di Commercio di Udine e Pordenone non ha tenuto le ordinarie contrattazioni dei prodotti. Pertanto le rilevazioni settimanali di cereali e avicoli vengono posticipate domenica prossima. Nel frattempo rileviamo un andamento mercantile discreto all'orto frutticolo di Udine, con i prezzi in movimento. L'insalata gentile della Lattuga Trocadero sono pagate all'ingrosso tra 1,40 e 1,50 euro al chilo, IVA esclusa, le zucchine tra 1,10 e 1,40, la scarola riccia tra 2,40 e 2,50, le melanzane tonde tra 1,20 e 1,40, i pomodori italiani in grappolo e i finocchi tra 1,30 e 1,50, l'erichio rosso tondo tra 1,50 e 2 euro, quello di Treviso precoce tra 2 e 2,20, i peperoni gialli e rossi fra 1,80 e 2,20, i cavoli tra 1,50 e 1,60, i kiwi tra 2 e 2,20, i meloni tra 0,90 e 1,60, le angurie tra 0,65 e 0,85, le ciliegie tra 3,50 e 5 euro, le pesche e pesche noci tra 0,90 e 1,80, le albicocche tra 1,40 e 2 euro. Segno instabile nel settore della pesca, con prezzi in aumento per le temperature climatiche avverse. Pertanto la cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 33 a 36 euro al chilo, IVA esclusa, le orate da 11 a 28, le sogliole da 9 a 26, le canocce da 12 a 19, le seppie a 12,50 al chilo, i laterini da 8 a 10, i gamberetti di laguna da 15 a 18, le anguille a 18,50 al chilo, le mormore e le passere da 11 a 15, i cefali da 2 a 7 e i calamari a 26 euro al chilo. Domanda sostenuta invece nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,45 e 5,95 euro al chilo, IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,70 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Il latte naturale di vacca Franco Stalla, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 37,50 centesimi il litro più premi qualità IVA. Infine, da Legno Servizi di Tolmezzo rileviamo le quotazioni della legna da ardere, che viene quotata a 6,50 euro il quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è diminuito di 50 centesimi. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador sentiamo cosa ci riserverà il tempo nella settimana entrante. Questa settimana le temperature si sono nettamente abbassate e anche a valori inferiori alla norma, ponendo termine ad una lunga fase molto calda che è stata la caratteristica principale di questa prima metà dell'estate. In particolare i 40 giorni che comprendono il mese di giugno e la prima decade di luglio di quest'anno hanno sostanzialmente eguagliato il record dello stesso periodo del 2003, con circa 4 gradi oltre la norma. Passando alle previsioni, si osserva che domani una piccola ma marcata depressione interesserà il nord-ovest d'Italia, mentre martedì su tutto il nord affluirà aria secca e stabile proveniente dall'Europa centrale. Domani avremo cielo variabile con la possibilità di qualche pioggia sui monti e temperature massime sui 28 gradi su pianura e costa. Martedì bel tempo e aria secca su tutta la regione con temperature massime attorno ai 30 gradi in pianura e 28 sulla costa. Da metà settimana correnti occidentali riporteranno aria più umida e instabile, che potrà favorire i soliti rovesci e temporali pomeridiani sui monti, mentre su pianura e costa il caldo si farà un po' più afoso, con massime ancora sui 30 gradi in pianura e 28 sulla costa. Non è escluso che qualche isolato temporale interessi anche le zone pianeggianti, in un contesto comunque con prevalenza di sole. Fino al 20 le temperature rimarranno nella norma, in seguito potrebbero di nuovo salire a valori elevati. Come sempre, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffuse anche dai notiziari radio regionali della RAI, nonché rese disponibili su internet, con la telefonia mobile e tramite gli altri canali informativi. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. A San Ramacul, sor cal va in penacul, ovvero a San Ermacro, il 12 luglio, il grano turco ha messo il pennacchio. Coordinamento tecnico di Daniel Apostoli, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lara Boccalone e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.